Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadoni in regia. Già vi dico che da domani e per un paio di settimane presterò questo microfono a Massimo Callegari, che vi terrà compagnia fino alle soglie del campionato. Per quanto mi riguarda, ci sentiremo personalmente il 29, domenica 29, giorno dell'inizio del nostro campionato. I soliti pigroni latini, noi e la Spagna, siamo rimasti solo noi latini perché in Francia, in Inghilterra, in Germania ormai sono già partiti. Allora oggi vorrei parlare del calcio degli altri, già cominciato. Nicola Roggero da Sky, ciao Nick. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Parte la caccia ad Ancelotti, parte la caccia al Chelsea in Inghilterra. Che campionato immagini al di là della manica? Dunque, un campionato dove mi sembra che i soli ad avere i soldi siano rimasti quelli del Manchester City, perché sono anche i soli che poi si sono mossi sul mercato, visto che nonostante la crisi economica la gente continua a fare benzina e di conseguenza il consorzio di Abu Dhabi, che è proprietario del Manchester City, di quattrini da spendere ne aveva e ha messo 100 milioni sul piatto, gli ultimi per prendere Martelli. Sì. Io peraltro immagino che i protagonisti siano più o meno gli stessi dell'anno scorso, e cioè il Chelsea e il Manchester United. Il Chelsea non si è mosso, anche se adesso ho sentito di questa offerta per Neymar, il giovane talento brasiliano, quindi avrà sostanzialmente la squadra dell'anno scorso. Attenzione però, rispetto all'anno scorso avrà Essien, che l'anno scorso di fatto il Chelsea ha potuto utilizzare per una quindicina di partite, non di più, e questo è un grosso rinforzo per il centrocampo. E il Manchester United invece ha fatto una politica di piccoli passi, è arrivato Smalling in difesa, è arrivato il Chicharito Hernandez in attacco, e poi questo ragazzo brasiliano Bebé, che è una storia incredibile, è un orfano cresciuto in un orfanotrofio, che ha cominciato a giocare in strada, sembra che lo avesse visto Mourinho, però Queiroz, il CT portoghese, che da sempre è nemico di Mourinho, l'ha consigliato a Ferguson, il quale l'ha preso. Ecco, io penso che sarà ancora una lotta tra Manchester United e Chelsea. Liverpool lo vedo in parabola discendente, non soltanto perché ha perso Benitez, peraltro è arrivato Oxon, che è un grande allenatore a mio parere, però mi sembra una squadra che sia incompleta, l'ho dimostrato l'anno scorso, e per giunta è una formazione che ha dei grossi problemi economici. L'Arsenal non penso che riuscirà a essere protagonista come non l'è stato l'anno scorso, anche se in più l'Arsenal avrà Van Persie, che per il quale vale il discorso di Essien, e Fabregas, che anche lui insomma nel finale di stagione è stato ripreso essenzialmente con degli infortuni. Però ecco, penso ancora che sia una lotta Ancelotti-Ferri. Sì, Ancelotti si è liberato anche di un po' di, ma vogliamo essere cattivi una volta tanto, di ciarpame inutile, no? Da Balla Kadeko allo stesso Carvalho, giocatore un po' a fine carriera, anche se sempre pallino di Mourinho. È vero che Abramovic ha chiuso i cordoni della borsa, questo è innegabile, è anche vero che si è liberato di alcuni contratti pesanti e di gente che non serviva poi più di tanto alla causa di Ancelotti. Sostanzialmente sì, perché Deco è un giocatore a fine carriera, al Chelsea non ha mai fatto la differenza, è andato via anche Belletti, però insomma sono tutti giocatori che non erano più protagonisti nel Chelsea, quindi non ritengono che abbiano influito più di tanto, che non influirono più di tanto sulla forza della squadra. Chelsea rimane estremamente quadrato, è una squadra comunque solida, collaudata. Le uniche incognite riguardano elementi come Terry o Lampard, che già nella scorsa stagione e soprattutto poi ai mondiali hanno dimostrato che forse la loro parabola comincia a essere in discesa. E sicuramente con Terry e Lampard con un rendimento calante, anche per lo spogliatoio questo sarebbe grave, perché sono i due autentici leader di quella squadra. Però qualche segno di usura l'hanno già cominciato a dare. Nicola, saltando alla Germania, la Bundesliga dà l'impressione di un campionato in salute, sta recuperando posizioni, credito, buoni giocatori, vedi gli stadi sempre pieni, stadi che peraltro sono bellissimi, eredità dei mondiali. Insomma, dalla Germania esce un'immagine di salute del calcio tedesco. Sì, ma o no? Il segreto è quello di essere persone serie. I tedeschi lo sono, hanno sempre tenuto i conti in ordine, le loro squadre, e adesso questo si fa sentire non soltanto con i conti in ordine, ma per esempio con gli stadi. gli stadi, dicevi bene, sono bellissimi e sono sempre pieni. Andare allo stadio in Germania è un piacere. C'è una squadra come il Borussia Dortmund, che pure insomma negli ultimi anni non è che abbia tenuto grandi trofei, che ha uno stadio che credo da 70.000 posti regolarmente esaurito, e non è che Dortmund sia esattamente... Tu mi insegni anche televisivamente, questo rende, quando vedi uno stadio pieno per televisione ti fermi un po' a guardare la partita. Ma sicuro, è uno dei problemi per cui la Serie B è di fatto italiana, dico, è uno spettacolo invendibile, purtroppo lo è anche buona parte della nostra Serie A. Quando vedi i nostri stadi obsoleti e per giunta semivuoti giustamente, perché ci sono degli stadi totalmente inaccoglienti, uno dei segreti passa di lì. Io credo che abbia ragione Galliani quando dice che lo stadio è un rendimento importante per un club, ha però stratorto, perché non si vede cosa impedisca a Galliani, al Milan e in generale agli altri grandi club di costruirselo il loro stadio. La Juventus in tal senso ha dato una lezione a tutti, anche perché vedi che anche club come Milan e Inter ogni tanto ricominciano a parlarne, no? Tornano sull'argomento e sì, però dobbiamo costruire il nostro stadio. Poi puntualmente tutto passa in cavalleria e il discorso viene aggiornato alla prossima seduta, ma restano solo chiacchiere. Non aspettare che lo stadio lo costruisca Pantalone. È un po' comodo così, cioè tu mi costruisci lo stadio e poi io lo utilizzo. Sì, bravo. Oddio, qualche ministro in Italia ha dimostrato che funziona anche così, cioè io prendo la casa e poi la pagano altri a loro insaputa. Però insomma mediamente non funziona così. Una società privata, se lo stadio vuole, se lo costruisce, è un club di calcio, la prima cosa che deve avere è lo stadio. Sì. In questo senso la Juventus ha fatto dei grandissimi errori di mercato negli ultimi anni, però ha fatto la scelta più importante, giusta, l'ha fatta. A mio parere lo vedremo tra 10 anni i benefici di questa ma scelta. Certo, ma io sai che continuo a darmi la Juventino, ma non importa niente, no? Però continuo a ripetere tutte le volte che la Juventus dal punto di vista del societario avanti anni luce rispetto a tutti gli altri, avrà anche sbagliato 1000 giocatori, avrà buttato via un sacco di soldi per gente di campo sbagliata, però dal punto di vista commerciale è anni luce avanti a tutti, e questo continuo a ripetere, mi sembra stia nei fatti, no? In quello che stiamo dicendo. Invece Nick, la Francia come la vedi? Il campionato francese come lo vedi? Quello di la Germania scoppia di salute, la Francia come sta? Ma la Francia sta benino, l'ha dimostrato anche l'anno scorso in Champions League, dove ha portato il Lione in semifinale, aveva portato un quarto di finale francese. C'era stato il Bordeaux che aveva giocato un calcio splendido fino a dicembre-gennaio, addirittura battendo il Bayern Monaco, che poi sarebbe stato finalista, e di fatto eliminando la Juventus dalla corsa alla Champions e dei gironi eliminatori. Poi Bordeaux ha fatto come certi ciclisti che partono troppo presto sulle prime salite e poi nelle ultime si trovano in crisi, tanto che il Bordeaux è addirittura uscito dalle coppe europee, non è né in Champions League né in Europa League. Però insomma è un campionato interessante soprattutto perché regolarmente presenta quei ragazzi che le squadre francesi possono andare a pescare in Africa, possono nel senso che i francesi in Africa hanno avuto un impero. Gianni Brera sosteneva che i francesi in Africa avevano un impero, gli italiani avevano della sabbia, e il sumo maestro aveva più che mai ragione, e di conseguenza arrivano questi ragazzi dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, dal Togo, dal Ghana, come nel caso di SN, che poi le squadre francesi possono ottenerle o rivenderle facendo dei grossi affari. Sì. È un campionato interessante soprattutto perché è molto equilibrato, ci sono tante squadre che possono vincere, abbiamo citato di sfuggita Bordeaux e Lione, ci aggiungerei la squadra detentrice del titolo, l'Olympique Marsiglia, allenato da Deschamps. Abbiamo parlato prima dei tanti errori commessi dalla Juventus, non per lo stadio ma sul mercato. Eccone un altro. Deschamps è uno di questi. Eccone un altro. E quello dei campioni del mondo, secondo te come sta di campionato? Sai, lì è arrivato Mourinho, il Barcellona ha speso un'altra valanga di soldi, ma magari anche per controbilanciare dal punto di vista dell'immagine l'ingaggio dello Special One. Per il resto cosa c'è sotto questa crosta d'oro rappresentata da Barcellona e Real Madrid? Io per il resto credo poco, perché siamo tornati all'epoca in cui in Spagna dettavano legge solo Barcellona e Real, ed era molto difficile che il titolo finisse fuori da questi due club. L'anno scorso c'era il Valencia, che peraltro alla fine della distanza siderale, ma il Valencia ha perso sia Villa che Silva anche per problemi economici. Villa è finito al Barcellona e Silva è finito invece al Manchester City, quindi certamente non sarà protagonista. Il Siviglia va fatto bene negli ultimi anni, ma adesso è una squadra che mi sembra abbia finito una certa parabola. le altre non mi sembrano in grado di inserirsi, compreso l'Atletico Madrid che pure l'anno scorso ha vinto l'Europa League, però insomma, nonostante le imprese di Forlan non mi sembra che abbia la statura per fronteggiare Barcellona e Real. Il Barcellona ha preso via anche per controbilanciare la grande futta al contrario dell'anno scorso, quando decisero praticamente di regalare Eto'o all'Inter, e per giunta contribuendo anche con i 40 milioni di euro messi lì per prendere Ibrahimovic, hanno regalato questo e hanno regalato ovviamente anche la Champions League, quindi è un errore che hanno pagato. Via probabilmente servirà a controbilanciare tutto, credo che questo significhi anche la fine di Ibrahimovic al Barcellona. Penso anch'io a testimonianza del fatto che l'Inter l'anno scorso in Spagna ha fatto solo affari. Nicola, grazie, ti sentiamo su Sky a raccontare tutto il calcio internazionale. Molto bene, grazie a te. Alla prossima. Grazie a Nicola Roggero, comunque abbiamo fatto una panoramica generale. Adesso, dopo il traffico, cominciamo ad entrare nel dettaglio dei singoli campionati. Eccoci tornati, è chiaro che insomma un'ulteriore suggestione, i campionati dei vari paesi europei andranno letti in controluce, anche magari facendo un parallelo sull'andamento delle nazionali, delle rispettive nazionali ai mondiali. Ad esempio sarà interessante leggere il campionato francese alla luce della debacle che sembra non avere fine nonostante l'arrivo di Blanc, in realtà. Debacle della nazionale francese agli ultimi mondiali, così come la Germania. Invece la nazionale tedesca è l'immagine di una Bundesliga in salute, perché è riuscita a proporre una nazionale, mi viene da dire una cosa grossa, vincitrice morale dei mondiali, comunque una nazionale che sta facendo scuola, che stiamo anche cercando di imitare in buona parte. Ho anche qualche ascoltatore oggi. Ettore da Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un intervento su Nazionale. Prego. Italiana. Vuol dire, tutte quelle critiche che hanno fatto su Prandelli mi sembrano veramente inopportune. Mi sembra che Prandelli abbia avviato un ciclo, un inizio molto importante, cambiando completamente l'indirizzo della vecchia. Sono d'accordo. Nazionale con l'IP. Mi sembra di respirare dopo tanto tempo l'aria di un commissario tecnico con la C maiuscola, perché mi sembra che lo faccia in maniera naturale, non in maniera arrogantella, diciamo così, come faceva il suo predecessore. Quindi complimenti per come ha cominciato. Guardi Ettore, io le dico, io sono d'accordo con lei, su quanto dice, cioè sono d'accordo con lei sulle critiche eccessive che sono arrivate dopo questo 1-0 che in fondo è un amichevole del 10 agosto, che vale come il trofeo Biramoretti, secondo me, come dal punto di vista strettamente agonistico. Lascerei stare paralleli con Marcello Lippi, che è attualmente il commissario tecnico più odiato della storia del calcio italiano, io credo, e questo è un po' paradossale se consideriamo il fatto che anche uno dei tre ad aver vinto, nella storia del calcio italiano, ad aver vinto un mondiale. Però lei ha ragione, nel senso che l'importanza di questa presentazione di Prandelli sia stata appunto nella libertà di pensiero che il nuovo CT ha dimostrato, convocando, aprendo le porte, al di là delle convocazioni, aprendo le porte a tutti quelli che sono eleggibili per la nazionale italiana. Piuttosto, Ettore, visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, faccio una domanda a lei: come valuta la convocazione di Amauri? Secondo lei Amauri può servire a quest'Italia o è stata una mossa di marketing, a suo parere? Ma secondo me la Mauri dei tempi di Palermo poteva essere sicuramente un plus nazionale. L'ultimo Mauri forse più una mossa tattica, per quello che l'ho visto io. Mi sembra un giocatore che stia invecchiando precocemente. Insomma, per me secondo me piaceva tantissimo Mauri, perché uno che fa reparto da solo. Quindi negli ultimi due anni ho visto una grande involuzione, non so il motivo, però non so cosa c'è dovuto. Però sugli oriundi siamo d'accordo con Prandelli, o sui nuovi italiani, come li chiama lui? Totalmente d'accordo, viviamo in un mondo globalizzato e di conseguenza non si chiude la porta a nessuno, qualsiasi sia la ragione, gli oriundi fanno parte del sistema Italia, insomma. Sì, no, ma sono d'accordo. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo 6-7 milioni di oriundi che vivono con noi, che ci consentono di continuare a vivere e di andare avanti. Ma poi al di là di questo, insomma, se uno ha i documenti in regola, come ho detto molte volte, se uno ha i documenti in regola per essere eleggibile per la nazionale italiana, non vedo per quale ragione, per quale forma di anche qui una parola grossa, di strisciante razzismo, quasi al contrario, non debba essere chiamato. Io ringrazio Ettore da Milano, primo ascoltatore di oggi. Non dimentichiamo ad esempio che la Spagna, che tutti oggi portiamo in palmo di mano, vinse 2 anni fa un europeo con un centrocampista brasiliano che era un giocatore determinante e fondamentale. Lo sa meglio di tutti Filippo Maria Ricci da Madrid per la Gazzetta dello Sport e per noi. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Vero o no? È un centrocampista brasiliano nel cuore della squadra. Marco Senna, che sì, assolutamente brasilianissimo, e niente, che è fondamentale per quella vittoria, poi diciamo non convocato per il mondiale, ma insomma uomo determinante nella conquista dell'Europa, sì, della Spagna. Filippo, ma tu dal tuo osservatorio e sulla scorta del tuo tanto girovagare tra Inghilterra, Spagna dove sei ora, Africa eccetera, questo, quindi uno, per dirla, uno più internazionale di te non c'è, come valuti questo discorso degli oriundi? Questa polemica che mi sembra che sia tutta italiana, perché non mi risulta che all'estero ci sia tutto sto casino sui giocatori nati da un'altra parte ma che hanno la nazionalità del paese che poi li chiami in nazionale. No, assolutamente. Io non sono tanto d'accordo su un discorso qualitativo, perché Amauri per me resta uno scarto del Brasile. Sì. Allora non lo vedo come uomo determinante. Uh-huh. In chiave italiana io ne faccio più un discorso di qualità. Poi sì, se ha il passaporto Camoranesi, era un argentino, è stato molto utile all'Italia, aveva il suo passaporto. Ormai voglio dire, il discorso è più ampio. Qui in Spagna mi sembra che ci siano 30 o 40 giocatori argentini e brasiliani col passaporto italiano. Perché ovviamente gli aiuta ad acquisire lo status di comunitari e gli aiuta nelle loro carriere. E hanno il passaporto, teoricamente sono italiani. Più di lì, questo noi cosa dobbiamo dire? Sono discorsi anche, no, che vanno un pochino oltre. Quindi io ritorno su un piano calcistico e dico: bene, se gioca bene, se può essere utile alla causa, bene, che poi, certo, non canti l'inno, non è così rilevante. No, assolutamente. L'inno mi sembra una pagliacciata. Cantare l'inno è una questione di retroguardia. È che a Mauri non lo vedo come. Non mi sembra Ronaldo, ecco. No, certamente. Io sono d'accordo con te sul fatto che quelli bravi che vengano chiamati, pure se sono funzionali alla squadra, se sono utili, ovviamente devono essere chiamati perché lo meritano, non per questioni di esotismo a tutti i costi. Su questo non ci piove. Invece, tornando alla nazionale spagnola, Filippo, si dice che la fortuna è cieca, sarà anche cieca, ma ti fa Spagna. E l'amichevole in Messico è stata una prova, l'ennesima prova. Sì, l'ennesima prova, non era nemmeno così, così rilevante. Sì, la fortuna è cieca, però il passaggio di Xavi, lui cieco non è, insomma, c'è anche questo, cioè quello è un passaggio, lo ha messo in porta e quello ha tirato e l'ha messa dentro. Sì, ma 91esimo, poteva anche perdere la Spagna. Sì, 92, no, io contando che era appunto una partita che doveva entrare in predizione, che il giornale chiudeva, io l'avevo già battezzata come sconfitta, abbiamo cambiato in maniera così rapida. Proprio così in extremis, ma in realtà sì, forse infatti la cosa più divertente di tutto questo è che sono andati tutti ad abbracciare Marcena, perché Marcena, che è un difensore per me abbastanza modesto ed eccessivamente duro, però ha questa peculiarità che non perde da 56 partite con la nazionale, ed è considerato un vero talismano, per cui sono andati tutti ad abbracciarlo, perché finché c'è lui più o meno stavo tranquillo. Non è che ha un antenato italiano, no? Nonno, esatto, uno zio. Il nome potrebbe, Marchena potrebbe essere, insomma, potremmo farlo, però ormai se lo sono presi loro. Del Bosque che si è arrabbiato non so se si è arrabbiato, che ha detto a Guardiola: ma questi gli hai fatto fare troppe vacanze, questi del Barcellona, che tra l'altro per contratto insomma dovevano esserci, se non ricordo male, 60% dei giocatori che hanno vinto il mondiale, quindi questi sono arrivati con le ciabatte, no? E la sabbia nel costume, sono saliti sull'aereo, sono andati in Messico e hanno giocato. Io lì c'ha ragione tutta la vita del Bosque, voglio dire, Guardiola si lamenta, ma il programma delle vacanze l'ha deciso lui, e l'amichevole con il Messico a Città del Messico si sapeva da marzo, per cui se Guardiola decide di dargli 30 giorni di vacanza poi dopo si assume le sue responsabilità. Secondo me del Bosque, con la consueta grazia, proprio senza fare nessun tipo di polemica, però sembrava che fosse colpa sua, invece voglio dire, il calendario era chiaro, gli dici: guarda, tornate qualche giorno prima, si risolve. risolve la questione. E poi voglio dire, Via non ha neanche giocato, altri hanno giocato di più, insomma, poi dopo un'altra, comunque se la nazionale sono i campioni del mondo, a me è sembrato da parte del Barcellona non sono stati molto avveduti, insomma, sì, vediamo. Sì, sì. La maledizione di Kakà, mi ha detto un amico che senza questo infortunio, che l'ennesimo capitato a Kakà, oggi starebbe giocando nel Chelsea di Carlo Ancelotti, ti risulta? Sì, questo era, se ne è parlato molto anche qua, e secondo me poteva finire così, e diciamo neanche non mi sarei nemmeno stupito troppo, io non ci vedo tanto chiaro. Qualche giorno fa Kakà ha fatto un'intervista molto lunga su Marca, difendendosi, e dicendo che lui aveva avvertito che c'aveva il dolore al ginocchio, però a me sembra che ci prendano tutti un po' per i fondelli o per scemi, perché vuol dire, adesso Kakà dice che c'aveva già male a finale della scorsa stagione, è possibile che nessuno gli vada a controllare il ginocchio, poi torna dalle vacanze dopo aver giocato il mondiale, c'ha il menisco rotto e con interessamento della cartilagine, fermo 3 mesi, ma insomma a me sembra che qui c'è qualcuno che non gioca in maniera chiara, insomma. Cosa che non ti torna in particolare, Filippo? Voglio dire, dice che aveva dolore già alla fine della stagione. Se ha dolore, cioè, però il dolore tutti pensavano che fosse derivasse dalla pubblicia. Va bene, può anche essere, però va a far vedere, no? Se fai un esame te lo dice come sta il ginocchio. Sì, certo. In realtà è che è andato al mondiale, e poi quando è tornato dal mondiale si è fermato 3 mesi, e a Real Madrid la stanno incassando in maniera incredibile, però al suo tempo, per usare la stessa parola, la credibilità di Kakà è decisamente sotto i tacchi, perché saremo già 90 giorni durante la prima stagione. Al di là di quello che può essere il rendimento, è chiaro che il giocatore ha problemi fisici, certo. Sì, come dice, la mettiamo, chiudiamo con il bicchiere mezzo pieno, che mi è stupenda dichiarazione di Mourinho, dice: quando tutti a gennaio cercheranno rinforzi, noi prenderemo Kakà. Sì. Il bicchiere mezzo pieno, poi, no? Poi c'è anche da capire se Mourinho Kakà lo vuole sul serio oppure no, perché non mi sembrano due personalità esattamente coincidenti, mettiamola così, esattamente complementari. No, bisogna vedere, perché poi adesso anche Kakà rischia, perché sai, inserirsi in una squadra di Mourinho, ci tengo, forse è ancora meglio specificare, a dicembre o a gennaio non sarà certo facile, perché o la squadra sta andando malissimo, allora è un disastro, ma se la squadra va bene, lui lì non mette piede nella squadra. Assolutamente. Comunque, sì. E quindi chissà mai che a gennaio si possa fare questo affare di Kakà, che una volta ci hanno provato a spedirlo in Inghilterra a gennaio, non ci sono riusciti. Però una cosa è il City, soprattutto il City di 3 anni fa, un'altra cosa è il Chelsea del suo amico Carlo Ancelotti. Questo lo scopriremo insieme, vivendo naturalmente come al solito. Grazie Filippo, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Tra poco vi porto in Inghilterra e poi anche in Germania. Intanto ripartiamo da un altro ascoltatore, che è Martino da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Niente, il mio intervento era solo una riflessione per quanto riguarda la nazionale. Sì. Allora, chiaramente va premiato quello che sono le nuove, come si può dire? Le nuove leve. Le nuove idee di Prandelli. Le nuove idee. E soprattutto, finalmente c'è qualcuno che apre, che spazia un attimino, non i soliti canoni o le solite strade. Sì, sì, d'accordo. Quindi questo mi piace molto. Ecco, e soprattutto speriamo che non venga poi messo alla gogna come è stato fatto con altri allenatori, perché magari non arrivano i risultati subito. Ma guardi Martino, lì abbiamo già cominciato, quindi è meglio non farci troppe illusioni. Se non farà punteggio pieno subito a settembre, le avversarie sono quelle che sono, quindi difficile pensare che non si torni alla vittoria, almeno con le Faroer, però la critica è dietro l'angolo, l'avrà sentito anche l'altra sera, no? Già sono cominciati mai forse i distinguo e i richiami a, non dico tanto a Pirlo quanto addirittura a Francesco Totti, questo mi ha fatto molto ridere. 50 milioni di allenatori in effetti, no? Siamo sì. In Italia, grosso modo. Sì, sì, sì, no, quindi è meglio non farsi troppe illusioni sul fatto che venga sempre portato in palmo di mano, ma per il resto sono d'accordo con lei, insomma. Lo dicevamo prima, l'abbiamo detto molte volte nei giorni scorsi, ciò che piace è l'apertura mentale di questo commissario tecnico, no? Di grande buonsenso, di grande pragmatismo, di grande furbizia, se mi consente. Sì. O no? Sì, sì, no, ma sono perfettamente d'accordo. Io darei la fiducia massima a un allenatore che farà. È un allenatore che ha, oltre che un suo carisma, ha anche questa personalità che forse in nazionale non abbiamo da anni. Cioè, una persona che si presta al dialogo e che non si chiude a riccio e dice: ah no, le mie idee sono solo le mie e basta. Insomma, sì, io sì, lo vedo così, Prandelli. Sì, sì. Senta, le chiedo ancora questo: lei chi vorrebbe vedere adesso? Balotelli l'hanno chiamato, Cassano l'ha chiamato, gli ha dato il 10 e le chiavi dell'attacco, gli ha chiesto di essere il leader offensivo. A Mauri l'ha chiamato, adesso chi chiamiamo? Santon. E se sta bene? È un ragazzo giovane che se gioca chiaramente un po' di più, perché l'anno scorso ha avuto un sacco di problemi fisici purtroppo e ha avuto poco modo di mettersi in mostra, però io Santon è un ragazzo che sulle fasce lo vedo molto bene, c'è un terzino che spinge, un bel incontrista e un ragazzo giovane soprattutto, visto che qua ormai andiamo a prendere anche nelle squadre di club andiamo a prendere dei giocatori che hanno degli anni, li strapaghiamo e sicuramente lasciamo perdere quello che è il nostro settore giovanile, che secondo me è molto valido. Sì, no, io la ringrazio, grazie Martino, sono d'accordissimo su Santon, l'ho sempre detto anche io, è un mio pallino, Santon è un giocatore che insomma quando ho cominciato a vederlo nell'Inter di Mourinho sono rimasto, non dico folgorato che è tanto, però molto piacevolmente colpito dalla personalità di questo giocatore, però poi è sparito, è un po' misteriosa la sparizione di Santon, certamente ha avuto seri problemi fisici nella passata stagione, poi magari è un po' sceso dal cuore di Mourinho, questo non lo so, è difficile dirlo. Certo è che è difficile criticare l'esclusione di Santon per i mondiali, perché di fatto nella seconda parte della stagione interista non l'abbiamo visto mai, dunque sarebbe stato impossibile e poco credibile una sua convocazione per i mondiali, però continuo a pensare che il futuro della nazionale italiana sulle fasce, se Santon si dimostra il giocatore che si è rivelato nelle sue prime apparizioni con l'Inter e anche con la nazionale, perché non dimentichiamo che già Lippi lo convocò per la Confederation Cup, beh, il futuro sugli esterni è assicurato, lui Crescito, ma che Molinaro mi sembra comunque un giocatore magari non così abbagliante, però certamente costante e utile. Poi continuo a dire che i giocatori che vanno all'estero si conquistano la maglia titolare in un campionato importante come la Bundesliga, lo Stoccarda, il rinnovo del contratto eccetera eccetera, beh, vuol dire che hanno dentro qualche cosa, e Molinaro vorrei rivederlo in nazionale personalmente. Romeo da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, salve, buon pomeriggio, salve. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo, anche se ormai sembra un argomento inflazionato, volevo parlare dell'ex commissario tecnico della Nazionale, Lippi. Sì. Premetto che sono un tifoso juventino, quindi posso avere solo simpatia per Lippi. Sì. E quindi non ho nessun preconcetto verso di lui. Detto questo, mi chiedo, io sono un dirigente di un'azienda edile. Sì. E quando io ovviamente avendo il potere decisionale e prendendo delle decisioni, giuste o sbagliate che siano, fin quando sono giuste tutto va bene, quando sono sbagliate uno se ne deve assumere le proprie responsabilità. Sì. È la stessa cosa che ha fatto Lippi, la differenza è una sola, che se io mi assumo le responsabilità in qualche modo pago con la perdita del lavoro, con la perdita delle liquidazioni, oppure con un essendo retrocesso ad altri incarico. No, ma io ho capito. Lippi, ho capito, Romeo, io ho capito, stia lì, io ho capito dove dovevo arrivare. Mi è capitato anche di sentire una suoneria di un telefonino, anche per la verità abbastanza cafona negli ultimi tempi, mettici soldi, eccetera, eccetera. Però quello che volevo sottolineare con lei, anche Lippi ha pagato tutto questo, mi pare, no? Ha pagato comunque. La cosa che ci ha spiazzati è stato il fatto che con una manovra assolutamente sui generis per il nostro calcio e il nostro sport, c'è stato questo cambio del commissario tecnico prima ancora dell'inizio dei mondiali, quindi non si poteva neanche dirgli e adesso te ne vai, adesso ti dimetti, adesso vieni licenziato, perché era già tutto fatto. Io credo che anche Lippi abbia pagato a modo suo, no? E stia pagando e continuerà a pagare a modo suo questa debacle mondiale con tutto ciò che ne consegue, perché insomma credo che la carriera di Marcello Lippi come allenatore sia chiusa qui, in sì, pratica, o no? Però io, mi scusi, le rubo solo altri 20 prego, secondi. Avrei prego. Gradito, da parte di Lippi, avrei gradito, siccome lo ritengo una persona onesta e seria, io avrei gradito da parte di Lippi queste parole. Probabilmente ho sbagliato, non so se ha sbagliato. Mi certamente ha sbagliato. Certamente. E quello che ho preso da gennaio fino adesso, non dico tutto, ci rinuncio e farò in modo che la federazione lo doni in beneficenza. Non lo voglio perché ho lavorato 2 anni, 1 anno va bene. Perlomeno uno dà un esempio di dire: ecco, mi sono assunto responsabilità, non intasco niente, non dico niente, però almeno un piccolo, un segno sarebbe stato gradito, perché c'è chi realmente nel lavoro è mal retribuito, o perlomeno retribuito il giusto, ma probabilmente sempre molto poco rispetto a quello che prendono nel calcio, e paga. Sì. Paga proprio fisicamente di tasca e paga. Sì. E con queste persone che invece non pagano mai, pur avendola, ecco, io non è che dico non avrebbe dovuto prendere lo stipendio, assolutamente no, ha lavorato. Un piccolo gesto, un beau geste per dire mi assumo la responsabilità, e questo è il segno dell'assunzione della mia responsabilità, la mettiamo sul grano, quindi questi teneteveli perché non me li sono meritati. No, ma io, insomma, è un pensiero questo, caro Romeo, che abbiamo sentito molte volte. Insomma, io la vedo poi in un altro modo, cioè nel senso che continuo a pensare che l'assunzione di responsabilità di Marcello Lippi sia stata nei fatti, e dunque così è. La sua carriera di allenatore è pressoché finita, e comunque è chiaro che se un professionista non fa bene, l'ingaggio successivo sarà di rango inferiore, quindi anche questo è un modo di pagare in denaro. E d'altra parte non è stato l'unico ad aver fatto una figuraccia ai mondiali, e non è l'unico a prendere tanti soldi per allenare una nazionale. Mi viene subito in mente Fabio Capello, già che ci siamo. Giancarlo Galavotti, penna della Gazzetta dello Sport, penna inglese della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Giancarlo, grazie. Buongiorno a voi. Secondo te la butto lì brutale, Capello ci arriva agli europei? Parliamo di Natale che facciamo prima. Parliamo di Natale che facciamo prima? Sì, poi dopo, per carità, voglio solo dire che adesso, dopo questa amichevole con l'Ungheria vinta 2-1 così dalla grinta di Gerrard, che non ci stava a fare ancora un'altra partita alla sudafricana, è una partita che poi non dice praticamente nulla, soprattutto in agosto, però adesso subito all'inizio di settembre, il 3 c'è la Bulgaria Wembley, dopodiché c'è la Svizzera a Berna, e quindi se le cose non ingranano subito, allora anche la federazione dovrà pensare a fare un mutuo per dargli finalmente la liquidazione, che in teoria dovrebbe essere di qualcosa come 15 milioni di euro, dopodiché il futuro. Ma mi sembra che perfino Martin O'Neill, che in questo momento si è sganciato dall'Aston Villa, e anche se non è proprio la scelta vorrebbero, ma se la situazione precipita come rischia di precipitare, Capello diventa inevitabile, anche perché mi sembra che un consenso a livelli così bassi non sia tollerabile. Cioè, per adesso si è retto ancora su, mi pare, su alcuni giocatori della vecchia guardia che non l'hanno mollato nel momento in cui. Ma anche quelli poi, insomma, ovviamente debbono valutare, pesare ogni parola nella situazione. Fatto sta che la realtà è che Fabio Capello è veramente l'imperatore nudo della favola di Andersen, che finché aveva lo scudo dell'invincibilità poteva anche parlare dialetto giuliano piuttosto che friulano e andava bene. Adesso che è tornato con il peggior mondiale nella storia dell'Inghilterra, ovviamente cominciano ad accorgersi che il suo inglese è senz'altro insoddisfacente per uno che è qui da 2 anni e mezzo. è uno che appunto a quel punto guadagna 6 milioni di sterline lorde l'anno, quindi sì, poteva sì, anche infilarsi in una Berlitz School a fare un po' di full immersion e venire fuori essendo padrone della lingua. Dopo che ti ha tradito, quando non ti fidi più, trovi tutti i difetti possibili alla tua moglie, eh? Non c'è niente da fare. Alla fine, purtroppo, cioè, quello che resta è quello che si vede, ecco. Ah, sicuro, sicuro. Senti, volevo chiederti invece un'altra cosa, che mi spiegassi questo Chelsea un po' berlusconiano, con Abramovic che ha chiuso i cordoni della borsa, ogni acquisto diventa un problema, consigli d'amministrazione per decidere quali giocatori andare a prendere. E Ancelotti che è venuto via dal Milan perché dice Berlusconi non mi compro più nessuno, adesso arriva Abramovic e Abramovic chiude i cordoni, ma com'è? Com'è che innanzitutto la crisi finanziaria mondiale ha lasciato il segno, sì, bisogna vedere anche in casa dell'oligarca russo, poi bisogna vedere esattamente come sono anche i meccanismi, perché l'idea che il signor Abramovic o Abramovic, come dicono dalle sue parti, sia venuto a comprare il Chelsea con i soldi praticamente del popolo russo attraverso quelle che una volta erano beni demaniali tipo giacimenti di petrolio, e che abbia fatto tutto questo senza nemmeno una telefonata a Vladimir Putin, ovviamente non ci sta. Quindi il fatto che Abramovic in un certo senso abbia tirato i remi in barca si giustifica non solo con il fatto che il suo patrimonio azionario si sia ridotto di oltre un terzo, sì, per la crisi subprime eccetera, quindi in più poi vediamo che è un po' un trend generale, certo, dove a parte il Manchester City che è l'unico che ha uno sceicco che tutti i giorni pompa barili di greggio a tutto spiano, anche Manchester United e il resto, Arsenal eccetera, al massimo vanno a comprare dei ragazzini promettenti sperando che poi vengano fuori campioni. Sicuro. Grazie Giancarlo, grazie davvero. Sempre un piacere, buon lavoro. Anche per me, a presto. Chiuderei questo giro d'Europa calcistico tornando da dove siamo partiti, cioè da Sky e da una delle voci che ci raccontano il calcio internazionale su Sky, per affrontare più nel dettaglio l'argomento di un campionato che Riccardo Gentile conosce benissimo. Buon pomeriggio Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Diciamo prima con Nicola Roggero, Bundesliga campionato in crescita, l'immagine è quella di una Lega che gode di buona salute, stadi belli e pieni, la forza di tenere, perché ormai in questo periodo di crisi selvaggia i club forti sono quelli che riescono a tenere i giocatori migliori e i club tedeschi ci stanno riuscendo. Sì, diciamo che è un momento positivo soprattutto per quello che la Germania poi ha fatto vedere al Mondiale, perché insomma magari prima di questo Mondiale c'era un po' di scetticismo verso il calcio tedesco. Credo che comunque alcune squadre, anche le più importanti, abbiano una sorta di codice da mantenere, che è un codice che riguarda la spesa, le spese. Io credo che in Germania non esistano giocatori realmente incedibili. È chiaro però che in questo momento di crisi nel calcio europeo, fatta eccezione proprio per la Germania, club come questi che hanno i conti a posto si possono permettere a quel punto di accontentare il Ribéry di turno che qualche sì, mese fa sembrava destinato ad andare via, ad esempio. Certo, no, tu hai ragione. Comunque la nazionale tedesca, che insomma, un po' troppo definire vincitrice morale dei mondiali, però quella che secondo me ha giocato il calcio migliore, c'è poco da girarci intorno, ha dato una bella lucidata comunque all'intero movimento, un movimento che comunque può contare su strutture che esistono e su un pubblico che forse il pubblico più numeroso d'Europa, onestamente, sì, guardandosi intorno. Assolutamente così, è il pubblico che più va allo stadio, sia considerando la Bundesliga ma anche la Serie B tedesca, che quest'anno per esempio aveva delle squadre molto importanti, delle squadre storiche su tutte, l'Hertha Berlino per esempio. Sì, cosa che ti devi far riflettere è che gli stadi tedeschi, e non prendo quelli della Serie A perché sarebbe troppo facile, quelli della Bundesliga, addirittura gli impianti di Serie B sono migliori di quasi tutti quelli italiani di Serie A. Questa è una considerazione che fece Rudi Völler quando allenò per un mese la Roma. E insomma, andando in giro si rese conto di questo piccolo problema che c'è da noi, purtroppo. Mi viene da piangere, ma comunque, senti, torniamo a parlare di campo. Il Bayern Monaco è attaccabile, come in tutti gli altri campionati europei di vertice, insomma, non c'è grandissima incertezza anche al vertice della Bundesliga, perché mi sembra che il Bayern Monaco sia difficilmente attaccabile come l'Inter da noi sul fronte interno, o mi sbaglio? Sai, dal punto di vista del gioco è sicuramente un vantaggio il fatto che questa è la seconda stagione di Van Gaal, no? E quindi la squadra conosce bene i meccanismi. L'altro anno invece ha faticato all'inizio, proprio perché i nuovi metodi, il carattere di questo allenatore molto particolare aveva messo in difficoltà alcuni giocatori. Adesso invece certe cose le conoscono a memoria, quindi partendo dal presupposto che il Bayern come singoli è la squadra più forte, adesso è anche una squadra che sa come giocare sulla carta, bisogna sempre dire Bayern. Però anche lo scorso anno, per esempio, lo Schalke 04 c'è stato, è rimasto lì fino a poche giornate dalla fine, e lo Schalke è stato un vero e proprio miracolo da parte di Felix Magath, il suo allenatore, senza grandi giocatori è riuscito a mantenere un certo standard. In più quest'anno, secondo me, oltre allo Schalke, adesso capiremo anche come saranno i rinforzi di mercato di questa squadra, sì. C'è anche un Wolfsburg che vuole rinnovarsi, riproporsi dopo il fallimento della scorsa stagione. Dietro c'è un colosso come la Volkswagen che in questo senso aiuta, ed è quasi in Germania una sorta di mosca bianca, nel senso che poi tutte le altre società invece molte sono società per azioni, quindi il Wolfsburg però insomma ha comprato Kier dal Palermo, una squadra che sul mercato è sempre molto attiva. Il punto debole sulla carta del Wolfsburg può essere allenatore, che si è andato a prendere quel McLaren che ha fatto piangere gli inglesi, insomma una scelta un po' particolare. Sì, McLaren è in buona compagnia, come ben sai. Parlavamo prima di giocare a Caravotti, io dicevo, ma Capello, non so se arriva agli europei, diceva, ma parliamo di Natale? Vediamo se arriva lì. Volevo chiederti ancora questo, Riccardo, la sensazione comunque è che i nuovi tedeschi, per dirla in maniera prandelliana, abbiano dato comunque al calcio di Germania anche quel tocco di fantasia che forse mancava. È solo una suggestione, eh? Beh, assolutamente sì, insomma è quella che abbiamo visto al mondiale. Chi conosce la Germania bene sapeva di vedere un mondiale diverso, chi magari non era così attento si è un po' sorpreso, però insomma dando un'occhiata alla lista dei convocati dell'Elva era chiaro che quella non era più una Germania forte fisicamente, dura, attenta, il solito discorso non mollano mai, stanno sempre lì, giocano male ma poi portano a casa il risultato. No, cioè questi hanno giocato benissimo e hanno portato a casa un terzo posto che insomma vista l'età media secondo me ci può stare, la dimensione esatta non era all'altezza della Spagna, però sai, il calcio è anche episodi e le partite vengono decise da situazioni particolari, quindi certi giocatori secondo me però hanno dato un pizzico di fantasia, perché io penso a Mesut Özil, su tutti, un calciatore nato in Germania, tedesco a tutti gli effetti, è chiaro, ha origini turche, sì, però sì. Anche se Müller è il mio preferito, Müller secondo me è un giocatore mostruoso, è un giocatore mostruoso Müller. Ma perché Müller è mostruoso? Perché è fisico, ha il tocco di palla, ha l'intelligenza tattica, la capacità di verticalizzare immediatamente. Sì, è un giocatore moderno, realmente moderno, che poi può occupare vari ruoli, quindi sono d'accordo con te, assolutamente, un giocatore, poi insomma, per quell'età direi che stiamo parlando veramente di un fenomeno, io credo, continuo a pensare che se non fosse stato squalificato con la Spagna, non lo so neanch'io, ma sai, la Spagna quest'anno aveva tutte le stelle dalla sua parte, non c'era nulla da fare, stelle che non l'abbandonano nemmeno in amichevoli in Messico quando segna al 92esimo, quando poteva finalmente perdere una partita, neanche quella. Grazie Riccardo, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Riccardo Gentile, dunque voce di Sky. Adesso ci fermiamo perché è il momento della pagina dei motori che delegherò tra un istante a Massimo Di Scienza, che ogni domenica in quest'estate vi darà in compagnia dalle 4:30 alle 5 con la cronaca in diretta dal mondo dei motori. Come dicevi in apertura, da domani presterò questo microfono a Massimo Calegari, che vi terrà compagnia in diretta ogni giorno da lunedì al venerdì per ciò che resta di agosto. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domenica 29 con la ripresa dei lavori, con la ripresa del campionato, quindi domenica 29 dalle 5 alle 7 saremo qui a raccontarvi, beh insomma in realtà non molto, perché come sapete causa spezzatino saranno i due anticipi del sabato, ci sarà una partita alle 18 e poi l'intero programma serale, ma noi presenti domenica 29 qui per riprendere le domeniche di A Tempo di Sport in epoca di campionato. Adesso motori, Massimo Di Scienza, la domenica di Brno, sentiamo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Quasi un pro forma la gara di ieri a Brno in Repubblica Ceca, la 10ª prova del mondiale, classe MotoGP ovviamente quella che seguiamo più da vicino. Quasi un pro forma, dicevamo, perché la corsa al titolo ha poco da dire, visto che Jorge Lorenzo ha ormai un vantaggio tale da potergli far dormire quasi sonni tranquilli. E poi soprattutto perché c'era tutta l'attesa per capire se e come e quando Valentino Rossi e la Ducati avrebbero annunciato il loro matrimonio. Quindi un fine settimana molto particolare che vogliamo analizzare sia dal punto di vista tecnico sia per capire quello che succederà in futuro con Carlo Manzini, inviato di Sky Sport. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Carlo, una gara, quella di ieri, che ha aggiunto poco a quello che già sapevamo, nettamente più forte degli altri Jorge Lorenzo, un Pedrosa forse l'unico in grado di impensierirlo, Valentino Rossi molto prudente, che ha dato quasi l'impressione di voler semplicemente arrivare fino in fondo e poco altro. Se vogliamo fare un'analisi un po' diversa della gara, potremmo dire che Jorge Lorenzo sta cercando di diventare un cannibale, nel senso che vuole non vincere, ma stravincere questo mondiale per mandare un segnale forte a Valentino Rossi, soprattutto per la prossima stagione, perché Jorge Lorenzo a questo punto, con questo vantaggio, potrebbe anche evitare di prendersi dei rischi, potrebbe amministrare la corsa, potrebbe anche guardare da dietro Pedrosa, seguirlo e marcarlo così per il mondiale. Invece è un Jorge Lorenzo che vuole prendersi assolutamente tutto, potrebbe battere anche dei primati di vittoria in stagione, di punti di vantaggio sul secondo, quindi insomma vuole portare a casa dei record, e questi sono tutti i segnali che lui sta mandando a Valentino Rossi per quella che per tutti diventerà la sfida del 2011. Una sfida non più in famiglia, ma tra due colossi contrapposti, colossi sia dal punto di vista del team, sia dal punto di vista della personalità, quindi Ducati contro Yamaha, Rossi contro Lorenzo. È il momento giusto, secondo te, per Valentino per fare questo grande salto in un territorio inesplorato per lui e che peraltro, dico Ducati, non viene dalla migliore stagione possibile? Io credo che il momento giusto sarebbe stato un anno fa, un anno d'anticipo rispetto ai tempi, perché era tutto maturo per l'arrivo di Valentino Rossi in Ducati, soprattutto con la preventivata esplosione di Lorenzo in Yamaha. Però insomma non si può cambiare la storia, o meglio il presente ci dice che Valentino Rossi sarà pilota Ducati nel 2011 e ci godiamo adesso questa avventura. Speriamo non sia il famoso canto del cigno di un super campione all'ultimo contratto, ma che sia l'inizio di una nuova super avventura del fenomeno che abbiamo apprezzato in questi anni. L'abbiamo detto anche nel corso della giornata di ieri, l'unica incognita a mio avviso per Valentino Rossi è l'anagrafe, perché comunque i 30 anni sono superati, un classe 1979, 8 anni più vecchio rispetto a Lorenzo, e non dimentichiamo Stoner, Pedrosa e tutti gli altri avversari molto più giovani, e passano gli anni e qualche centesimo si perde nella guida o nella reattività, anche se non lo si pensa di testa, ma effettivamente nella reattività qualcosa si perde. Però credo che sarà una bellissima avventura e sarà soprattutto per noi della stampa, dei media, della televisione seguire questa avventura, finalmente Rossi sulla moto italiana per eccellenza. Carlo, per concludere, esiste secondo te anche per la Ducati quello che una volta si chiamava teorema Ferrari, cioè mai un pilota italiano a guida di una Ferrari perché la pressione sarebbe troppo alta, oppure in questo caso vale soltanto per la Formula 1 e non per la MotoGP? Diciamo così, Valentino Rossi non è un pilota italiano, è un fenomeno, punto, e ai fenomeni è concesso tutto. Eh sì, vedremo come andrà questo matrimonio Rossi-Ducati, se sarà un connubio felice o no. Grazie a Carlo Manzini, inviato di Sky Sport, il nostro esperto di MotoGP, ma non solo. Appuntamento a domani per A Tempo di Sport. Un saluto da Massimo Di Scienza. Tempo di Sport.